4 mattino. Io vorrei dire che la spesa sanitaria in Italia già è enorme. Ci spendiamo 117 miliardi l'anno per la sanità. Aggiungere 9 miliardi non mi sembra una piccola cosa. Spezia, qui dicono che sicura la terza ondata, c'è solo da aspettare. Ma ti risulta che si stiano impegnando a risolvere il problema dei carri bestiame e dei mezzi pubblici? Lavorando nella scuola posso constatare che non ci sono posti più sicuri come gli istituti scolastici. Tutto organizzato quotidianamente, ancora attualmente il personale ATA continua a igienizzare, pulire, distaccare, creare nuove classi ampie e trovare nuovi posti. Ed ecco qua, ancora con la scuola, se volete, al centro, perché già ci stiamo interrogando, si riparte il 7 gennaio, però si riparte con che condizioni per quanto riguarda i mezzi pubblici? Perché quella è la grande questione. Ci si sta pensando oppure no? Oppure dovremo riaprire le scuole il 7 gennaio per ritrovarci con i presidenti di regioni che fanno le ordinanze per richiuderle 2 settimane o 3 settimane dopo perché arriva la terza ondata? Come vogliamo fare? Vogliamo metterci un filo di attenzione su questa cosa? Sulla questione dei 9 miliardi alla sanità, guardi, io penso che molto semplicemente la sanità ha bisogno di ammodernamento. Tenga presente che la narrazione dei 9 miliardi per la sanità all'interno del piano per il recovery italiano è lievemente diversa da quella che viene fatta tanto dal ministro Speranza quanto dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel senso che quei 9 miliardi sono la parte di digitalizzazione e assistenza sul territorio, ma per esempio la parte della costruzione degli ospedali e del rinnovamento degli ospedali è compresa nella sezione che riguarda il rinnovamento degli edifici pubblici. Quindi bisogna poi andare a guardare ogni singolo capitolo. Il problema grosso qual è? È che in questo momento noi abbiamo questo piano presentato dal governo che è tutto sommato una serie di titoli, una serie di capitoli sulla quale non c'è molta sostanza specifica. La sostanza specifica dovrebbe arrivare tra breve e speriamo che arrivi, posto che su questo ci siano degli accordi all'interno della maggioranza. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp per questa seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È venerdì 11 dicembre, al microfono sempre Simone Spezia. E andiamo dunque a vedere, come sempre, cosa titolano in questo momento i giornali, quali sono i titoli principali. Molti decidono di aprire sul piano europeo. Il piano europeo adesso va, è il titolo di Avvenire. Accordo europeo, 209 miliardi all'Italia, è il titolo del Corriere della Sera. Dalla BCE 500 miliardi, nubi sulla ripresa, il Sole 24 Ore a sottolineare la nuova strategia annunciata ieri dalla Banca Centrale Europea, e poi l'accordo europeo, il recovery può decollare. Si parla di recovery plan anche sul Fatto Quotidiano, però non dell'accordo europeo, bensì degli scontri all'interno della maggioranza. I finti tonti sapevano tutto, e il riferimento è in 3 foto, sono Graziano Del Rio, Matteo Renzi e Marcucci, i 2 capigruppo del Partito Democratico, e appunto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Altri giornali si concentrano sul Natale, controordine. A Natale ci si sposta, è il titolo del giornale. Spostamenti a Natale, governo diviso, è il titolo del Quotidiano Nazionale. Quali altri giornali ancora? Vabbè, la Repubblica decide di aprire sulla vicenda di Giulio Regeni, così gli 007 egiziani hanno ucciso Giulio, arriveremo anche a questo, e però si occupa anche del Natale, dietro fronte di Conte, La Stampa anche su Regeni, nella cella numero 13, torturato con lame e mazze La verità, grazie a Conte niente condanna al suocero, il peculato di Cesare Paladino cancellato grazie al codicillo infilato nel decreto rilancio. E infine vi do anche il titolo della Gazzetta dello Sport: il ragazzo del gol è il titolo, ed è una bellissima, bellissima foto di Paolo Rossi che esulta dopo un gol con la maglia della nazionale 1956-2020, come abbiamo raccontato ampiamente ieri, appunto la morte di Paolo Rossi. Iniziamo come sempre da qualcosa di un po' diverso, e questo qualcosa di un po' diverso oggi ci porta in Francia dove c'è una storia che viene raccontata dal corrispondente Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, ed è la storia di Mila. Chi è Mila? Mila è una ragazza omosessuale di 16 anni che qualche tempo fa ricevette una serie di insulti omofobi, alcuni su Instagram, alcuni di questi insulti provenienti da persone di religione musulmana. In un impeto di rabbia ebbe, per così dire, l'ardire di insultare, di prendersela con il Corano e con Allah, e da quel momento la sua vita è stata un inferno. Dal 18 gennaio 2020 vive nascosta, minacciata dagli islamisti, dopo aver appunto risposto ad attacchi omofobi con un video su Instagram nel quale insultava l'Islam e Allah. A febbraio Mila ha dovuto lasciare il suo liceo, il Leonardo de Vinci di Villefontaine vicino a Lione, ed è stata ospitata nel pensionato di un liceo militare. A settembre i suoi genitori hanno cercato di iscriverla di nuovo in una scuola normale, ma nonostante l'insistenza del governo tutte si sono rifiutate di accoglierla per paura di attentati. Così Mila ha ricominciato il nuovo anno scolastico nel liceo militare, a condizione di mantenere il segreto più totale. Anzi, il liceo militare le aveva imposto di non utilizzare più il telefonino. Mila ha ricominciato il nuovo anno scolastico nel liceo. Qualche giorno fa, in una video chat con qualche amico, si è lasciata sfuggire il nome dell'istituto. Si è accorta dell'errore, ha cambiato discorso, ma era ormai troppo tardi. È stata cacciata anche da lì. Finirà l'anno scolastico a casa, con la didattica a distanza, il liceo militare e quindi l'esercito francese si piegano in sostanza alle minacce degli islamisti. Così il padre scrive una lettera al colonnello preside, viene pubblicata ieri dalle Pointe: vi siete sbarazzati di Mila al primo pretesto, ma se neanche l'esercito può permetterle di proseguire gli studi, che cosa possiamo fare noi genitori? Per noi è un film dell'orrore, tutto questo in ore nelle quali il governo francese presenta il progetto di legge per la difesa dei valori della Repubblica dagli attacchi dei musulmani radicali, norme volute dopo l'assassinio del professore Emmanuel Paty. Sapere qual è il problema? Il problema sono, e lo sottolinea Stefano Montefiori, sono coloro che anche da laici accusano lei, come se volete, un po' come se si accusasse, come quando si accusano le donne per i loro comportamenti quando subiscono uno stupro, che accusano lei come ha fatto Ségolène Royal, possibile candidata all'Eliseo nel 2022, che qualche settimana fa lamentava che un'adolescente irrispettosa venga portata a simbolo della libertà di espressione. Così Ségolène Royal. E però sapete quante minacce, quante accuse, quante minacce di morte, minacce di stupro, di torture ha ricevuto Mila dal 18 gennaio 2020? 30.000. 30.000, questo è il numero. E a proposito di tutto questo, c'è un pezzo, niente male, dal giornale che troviamo a pagina 20 del giornale, firmato da Gaia Cesare, che ci racconta di quali sono state le linee guida decise da un tempio universitario e un tempio, se volete, a questo punto anche della libertà d'espressione. Si parla dell'Università di Cambridge, la quale ieri ha dato il via libera a quelle che saranno le linee guida. Come si dovrà parlare quando si viene a tenere una lezione all'università? Come si devono esprimere gli studenti? A cosa bisogna stare effettivamente attenti? In quest'era nella quale alcuni denunciano l'eccesso di politicamente corretto, Cambridge sceglie di non usare la parola rispetto, ma la parola tolleranza. E perché? Perché il concetto di rispetto rischia di limitare, dice Cambridge, la libertà di espressione. Meglio parlare e promuovere la tolleranza delle idee e delle identità altrui, è la decisione presa dalla Regent House, l'organismo di governo dell'università più blasonata al mondo, che ha pubblicato mercoledì i contenuti della sua nuova politica interna sulla libertà di pensiero. È questo esattamente il punto. Il passaggio cruciale è il seguente: nell'esercizio del loro diritto alla libertà di espressione, l'università si aspetta che il proprio personale, studenti e visitatori, siano tolleranti nei confronti delle diverse opinioni degli altri, in linea con il valore fondamentale dell'università, della libertà di espressione. L'università promuove un ambiente in cui tutto il suo personale, gli studenti, possano sentirsi in grado di mettere in discussione e testare il sapere ricevuto ed esprimere nuove idee e opinioni controverse o impopolari all'interno della legge, senza timore di intolleranza o di discriminazione. Così l'università di Cambridge a tenere acceso un dibattito che, come capite, continua a essere forte su questo fronte. Vi voglio portare, non mancano quasi mai in questa parte della rassegna stampa, le aule di giustizia. E l'aula di giustizia nella quale vi voglio portare, e l'aula, se volete, anche mediatico-giudiziaria nella quale vi voglio portare, è quella nella quale è stata rinchiusa Nunzia De Girolamo, l'ex ministra. La sua vicenda giudiziaria più o meno la ricordate tutti, perché è una vicenda che poi ha portato alle sue dimissioni, ovviamente profluvi di intercettazioni sui giornali, messaggi SMS, messaggi WhatsApp che inevitabilmente mettevano sotto accusa la De Girolamo, che faceva parte di questo direttorio per tenere sotto controllo l'ASL di Benevento. Ebbene, è stata assolta perché il fatto non sussiste. Lo racconta in una paginata bene il Corriere della Sera, a pagina adesso ve lo ritrovo, la pagina, l'autore è Virginia Piccolillo, l'autrice è Virginia Piccolillo comunque. Il pezzo inizia così: aprire la finestra della disperazione quando ti arrivano addosso accuse così grandi e pensi che sia venuta meno la fiducia in te di tutte le persone che ti volevano bene. È un attimo. Io ci ho pensato, ma ho trovato la forza del sorriso di mia figlia. Così Nunzia De Girolamo, che ieri era nell'aula del Tribunale di Benevento, mi sono sentita svuotata e confesso sono scoppiata a piangere. Era ministra dell'Agricoltura, ve lo ricorderete, coinvolta alla fine del 2013 in un'inchiesta per irregolarità nell'ASL di Benevento, che l'aveva convinta di me. E poi le è costata una richiesta di condanna a 8 anni e 3 mesi, appunto assolta perché il fatto non sussiste. A bruciare sono soprattutto le accuse di giornalisti e colleghi. Ho avuto tanti giudizi e pregiudizi dai renziani e dai 5 Stelle, non ho mai utilizzato la mia visibilità per difendermi dal processo, sono stata zitta, dice, mi sono difesa nel processo, e però dice adesso ai magistrati deve essere richiesta la responsabilità. Credo che la mia vicenda debba far riflettere molti. Una pausa. Quattro mattino. Stando nel mondo della scuola, i ragazzi sono poco partecipi o per nulla. La DAD vuol dire più delle volte l'insegnante che parla per ore e i ragazzi che non interagiscono. La scuola è un disastro. La didattica a distanza è di bassa qualità, i ragazzi stanno involvendo, la scuola è stata veramente un fallimento, qualcuno lo dica, la scuola a distanza va male. Oh, non ovunque, chiaramente, ci sono un sacco di esempi virtuosi e qua spesso li raccontiamo, li racconto ogni tanto anche la nostra Maria Piera Ceci con Alessandro Milan nello spazio del lunedì mattina, che Uno Nessuno 100.000 dedica anche alla scuola, però è vero che è stata dura, in molti casi non ha funzionato e questo è oggettivo, lo dico con buona pace appunto dei docenti che spesso ci scrivono e ci attaccano per quello che sosteniamo in merito alla scuola, però con buona pace loro è così. Abbiamo chiuso la prima parte della rassegna stampa andando nelle aule di giustizia, e in parte ci torniamo nelle aule di giustizia, perché ieri la vicenda industriale italiana ha incrociato la vicenda delle aule di giustizia, per uno strano gioco del destino, se volete, o non so che cosa sia esattamente, non so se siano scelte o se sia un gioco del destino. Il fatto sta che ieri lo Stato è rientrato nell'acciaio. È rientrato nell'acciaio acquisendo una parte di Ilva. Un accordo fatto, raccontano Paolo Bricco e Domenico Palmiotti a pagina 14 del Sole 24 Ore, con lo Stato che entra nel capitale di ArcelorMittal e torna nell'acciaio dopo 25 anni, quando era il 95, l'Ilva passò dall'Iri alla famiglia Riva. E come si diceva, per uno strano gioco del destino, per una singolare coincidenza, lo Stato rientra con un ruolo di azionista nell'acciaio nel giorno nel quale a Milano la Corte d'Appello assolve Fabio Riva, ex amministratore del gruppo, ex figlio del capostipite Emilio, dall'accusa di bancarotta per la holding Riva Fire che controllava l'Ilva. Una delle accuse, insieme a quella di disastro ambientale, che però resta ancora aperta con il processo a Taranto in corte d'assise, che fece capitolare nel 2013 Riva, inducendo il governo Letta ad estrometterli dall'azienda attraverso il commissariamento. Ritorniamo adesso su questa vicenda, sulla parte specificatamente giudiziaria. Ovviamente nel pezzo di Paolo Bricco e Domenico Palmiotti trovate i dettagli di questo accordo, ma soprattutto nel commento di Paolo Bricco al lato trovate qual è il vero punto. Il vero punto è che non c'è una strategia, non c'è una strategia. Lo Stato nel giugno del 2022 ci sarà il secondo aumento di capitale, con lo Stato che andrà in maggioranza salendo al 60%. Ci racconta però Paolo Bricco che, seppure l'ingresso del capitale pubblico nella società ha evitato due derive, ossia una statalizzazione immediata e totale dell'Ilva da una parte, oppure una causa miliardaria contro lo Stato di ArcelorMittal, c'è un'altra questione. La dirigenza di questo paese si è massacrata sull'Ilva, ognuno ha detto la sua. Alla fine non è chiaro quale modello di business abbia in mente il governo, fare che cosa, con quale tecnologia, con quante persone, a quale costo sociale. Modello univoco, vero e concreto, non le slide da piano industriale. Il secondo problema di questa stabilizzazione è che non è gratis. In un anno e mezzo costerà 1,1 miliardi di denaro pubblico contro i 70 milioni dei Mittal, che dopo essere scampati al tintinnio delle manette della Procura di Milano hanno rimediato a un buco clamoroso. Su 1,8 miliardi di euro di capitale iniziale a disposizione, in Italia hanno bruciato 1,2 miliardi. ArcelorMittal avrà un suo ulteriore beneficio: deconsolidare la società partecipata dai conti del gruppo. E quindi qua si pone un grande problema di strategia, che è il problema di strategia che, secondo Luciano Capone sul Foglio, ha a che fare sempre con il momento nel quale lo Stato entra in un'azienda. Ossia, dice Capone, i presupposti affinché l'investimento e la gestione pubblica si rivelino l'ennesimo fallimento ci sono tutti e sono peggiori del rilancio di Alitalia. L'obiettivo del piano industriale, come per la compagnia aerea, non guarda tanto al contesto del mercato e alla sostenibilità economica, ma parte dal mantenimento dei livelli occupazionali, ossia compriamo per mantenere i posti di lavoro a Taranto, non per farci la grande acciaieria. Nel caso dell'Ilva però le istituzioni locali, dal sindaco di Taranto al presidente della Puglia Emiliano, pretendono in aggiunta anche la chiusura dell'area a caldo, ovvero che non si produca l'acciaio. È come se all'Alitalia, che già versa in condizioni disastrose, si chiedesse di abbandonare le rotte intercontinentali perché inquinano. Se questo è il contesto politico-economico, non sembrano esserci molte possibilità di successo per l'Ilva statale, scrive Luciano Capone. Sulla questione invece della soluzione di Fabio Riva, il quale appunto è stato assolto ieri, c'è una segnalazione da fare. Allora, sostiene Camilla Conti, per esempio, sulla Verità, che la conferma della Corte d'Appello di Milano della soluzione per Fabio Riva fa sì che un pezzo di storia industriale del paese avrebbe potuto essere scritta in maniera completamente diversa. Cosa è successo in tribunale? Malgrado il ricorso in appello della procura, la procuratrice generale ha sollecitato la conferma dell'assoluzione di Fabio Riva dall'accusa di bancarotta perché il fatto non sussiste. Gli altri componenti della famiglia erano già usciti dal procedimento patteggiando la pena. Fabio Riva, ex presidente dell'Ilva, era quindi l'unico andato a processo. E da segnalare anche quello, e lo ricordiamo ancora una volta, quello che aveva scritto il GUP, il giudice per l'udienza preliminare, Lidia Castellucci, nelle motivazioni dell'assoluzione in primo grado del luglio 2019. La società ha investito in materia di ambiente e oltre 3 miliardi per l'ammodernamento e la costruzione di nuovi impianti. E quindi non c'è stato il contestato depauperamento generale della struttura. E la Procura di Milano aveva fatto ricorso, ebbene, e aveva chiesto 5 anni per Fabio Riva, che adesso appunto è stato assolto anche in appello. Facciamo così, ci prendiamo una pausa adesso, anticipiamo lievemente il traffico e poi voglio portare sul caso Regeni molto rapidamente con due spunti molto diversi, uno di Carlo Bonini su La Repubblica e l'altro invece di Gian Michele Sin sul Giornale, e poi rapidamente sulla politica tra un attimo. Mattino. Ma come mai continuiamo a fare polemica e a criticare tutte le decisioni che vengono prese dal governo e continuiamo con i trasporti, che è vero, ci sono dei problemi enormi e non li hanno risolti, non so se li stanno risolvendo, ma non siamo in grado di fare un minimo di sacrifici. Ci preoccupiamo del Natale, di andare a trovare e i parenti, delle possibilità di non spostarci da comune a comune, quando c'è gente che non festeggerà il Natale perché gli sono morti dei parenti di Covid. Secondo me il governo sbaglia con queste misure degli spostamenti, perché allora possono venire dagli Stati Uniti le persone, possono entrare in Italia, basta che si fanno il tampone prima di partire e tu non ti puoi spostare a trovare i tuoi genitori. Vedremo, poi queste le vostre opinioni, vedremo se cambieranno le norme. Molto rapidamente, perché l'ipotesi a questo punto è questa, molto rapidamente sulla questione del caso Regeni. Ieri c'è stata la conclusione delle indagini italiane, come sapete, come avete sentito anche in GR24. Qua due commenti di non proprio di segno opposto, ma con posizioni lievemente differenti. Quello di Carlo Bonini sul quotidiano La Repubblica a pagina 40 dice questo: la nostra magistratura indica una struttura di Stato in una struttura di Stato della Repubblica Araba d'Egitto il luogo dell'orrore, e in ufficiali in uniforme di Stato della National Security, il servizio segreto, i carnefici. Questo non lascia spazio a molte alternative sul piano politico e diplomatico, a meno di non voler pensare che un futuro processo penale debba impropriamente assumere su di sé una funzione che non ha e non può avere. Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli esteri Luigi Di Maio hanno il dovere di spiegare innanzitutto al paese, prima ancora che alla famiglia Regeni, con la trasparenza e il coraggio che un passo di questo genere richiede e che per troppo tempo è stato rinviato con l'alibi di un accertamento giudiziario ancora in corso, quali decisioni sovrane il nostro governo intende a questo punto assumere e per quali ragioni, quali che siano. L'alternativa è secca: fare propri gli argomenti del presidente francese Macron, che ha spiegato come il mancato rispetto dei diritti umani da parte della Repubblica Araba non possa, non debba essere ostacolo all'amicizia, o al contrario rispondere politicamente, economicamente all'offesa egiziana. Così Carlo Bonini, mentre Gian Michele Sin ci dice: guardate, non è possibile, cioè non si può fare. Tutta la necessità di giustizia che richiede la vicenda Regeni, dice Gian Michele Sin a pagina 19 del Giornale, non si può. Se anche il processo ricostruisse ogni attimo della barbara uccisione di Giulio Regeni, farsi consegnare i suoi assassini resterebbe impossibile. Il motivo è evidente: la sicurezza nazionale egiziana e i suoi ufficiali sono parte di un apparato di sicurezza impegnato in uno scontro all'ultimo sangue con i militanti islamisti della Fratellanza Musulmana e con le cellule dell'ISIS attive nel Sinai. Quell'apparato garantisce la sopravvivenza non solo politica, ma anche fisica del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Consegnandoci gli aguzzini di Regeni, al-Sisi li trasformerebbe in rei confessi pronti a scaricare su di lui le proprie responsabilità. Dice ancora Michele Sin, la considerazione di Macron, quella di cui parlavamo prima, è cinica ma efficace. Al-Sisi è un despota illiberale, ma boicottarlo è oltre che inutile anche controproducente per i nostri ovviamente affari economici, dice, ma le conseguenze sarebbero ancora più gravi su quel quadrante geopolitico che ci vede in estrema difficoltà non solo in Libia ma in tutto il Mediterraneo. E su questo fronte Al-Sisi è un alleato fondamentale del quale non si può fare a meno. Così Bonini e Michele Sin su due fronti diversi. La questione politica, allora, si balla ragazzi, si balla. Non so effettivamente quanto si balli, ma a giudicare dal retroscena di Carlo Bertini e Ilario Lombardo a pagina 9 della Stampa, per quanto valgano i retroscena, si balla tanto. Tanto che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con un ministro del Partito Democratico, avrebbe detto: a questo punto davvero sarebbe meglio andare a votare. Perché Conte dice questo? Perché dice, gli hanno detto, questa volta Renzi fa sul serio, ed è una cosa che gli hanno detto tutti, non solo, non è detto nemmeno che si vada a votare, perché sa Conte che nella Repubblica parlamentare, dove tutto è possibile, potrebbe aver ragione Renzi quando dice che al momento opportuno, quando davanti a deputati e senatori si staglierà la prospettiva di tornarsene a casa, i numeri per una nuova maggioranza si troveranno. E quindi a quel punto, se ci sono o se possono esserci numeri per una nuova maggioranza, l'ipotesi che cada Giuseppe Conte non è più da escludersi, perché si era tenuto in piedi da qualcosa, tra queste tensioni era tenuto in piedi ovviamente dal fatto che non si andasse a votare. Vi voglio segnalare su questo fronte un altro spunto interessante sotto l'aspetto prettamente politico, ed è l'intervista che realizza il vice segretario del Partito Democratico Andrea Orlando. Perché se da una parte sui giornali troviamo tutte le indicazioni secondo le quali, io ve lo ripeto ancora, scusate, è chiaro che sono un po' giochi di palazzo questi e possono infastidire sotto certi aspetti, e lo capisco perfettamente, però sono giochi di palazzo che poi hanno effetti a cascata su tutti noi, perché sono giochi di palazzo che poi portano eventualmente a un cambio di governo, a un voto e quindi anche alle decisioni che vengono effettuate sul fronte della pandemia e sul fronte del recovery fund, poi da quale questione dalla quale poi è nato tutto. Andrea Orlando, il vice segretario del Partito Democratico, rilascia un'intervista nella quale, sotto un'apparente morbidezza, in realtà mette sul piatto le stesse accuse che Renzi fa a Conte, cioè di decidere troppo da solo, di comunicare troppo da solo. Ed eccolo qua. Quelli che erano limiti trascurabili prima della pandemia, dice a Giovanna Vitale a pagina 8 della Repubblica, e del recovery in particolare, assumono oggi una dimensione più rilevante. Un certo doping comunicativo, un certo grado di accentramento rischiano di diventare ostacoli più che strumenti. Cioè, che gli sta dicendo Orlando? Gli sta dicendo: stai concentrando troppo potere su te stesso, fai troppe conferenze stampa, devi stare un po' più zitto e arretrare un pochino. Occorre diminuire l'ansia comunicativa, si comunica solo quando le cose sono consolidate. Qua la critica, devi parlare solamente quando le cose sono fatte, l'abbiamo concordate insieme, altrimenti si crea un cortocircuito, come sabato mattina eravamo seduti al tavolo sul programma quando abbiamo appreso da un'intervista rilasciata proprio a Repubblica che lunedì il recovery plan sarebbe approdato in Consiglio dei Ministri. Subito abbiamo chiesto di capire se le due cose camminavano insieme, se fossero andate in direzioni diverse. Una delle due rischiava di diventare inutili. E ancora, l'attività di Palazzo Chigi deve incrociarsi di più con quella dei ministri, anche perché il recovery è uno strumento trasversale su alcune questioni cruciali, il consenso è indispensabile. Come capite, anche i segnali che arrivano su questo fronte dal Partito Democratico sono segnali abbastanza forti nei confronti del Presidente del Consiglio Conte. A chiudere, come sapete, ieri si è chiusa la partita del recovery fund, sono sbloccati i fondi sostanzialmente, grazie ancora una volta all'intercessione e al lavoro prezioso della cancelliera tedesca Angela Merkel. Il pezzo per capire tutto di tutto ciò è il pezzo di Beda Romano a pagina 5 del Sole 24 Ore da Bruxelles, che spiega anche i dettagli di questo accordo raggiunto con Polonia e Ungheria. accordo tramite il quale resta il principio dello Stato di diritto nell'erogazione dei fondi, ma l'applicazione viene rinviata di un anno e sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia Europea. Questo per stringere un po' il concetto. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, ovviamente con Paolo Mieli per un commento di giornata, e poi alle 8.35, anche su sollecitazione di molti ascoltatori che ci hanno scritto su questo fronte, parleremo della proroga degli sfratti che sta creando molti problemi anche ai proprietari di casa, proroga degli sfratti che potrebbe essere estesa, stando ad un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle, la proroga appunto del blocco degli sfratti. GR24, ci risentiamo subito dopo.